avanti Cagliari, buongiorno. Certo, certo, buonasera da Venezia, Tango 2. Quindi portati di 1969, poi man mano la cosa è evoluta, insomma eccoci qua ancora. Sì, questo apparato che sto utilizzando è del 1972, è un 23 canali AM/SSB marchiato Lafayette, fatto di metallo puro come ci usava una volta. Sì, io non sento nessuno, tra l'altro è un fruscio molto forte qua di sottofondo che i segnali quindi molto bassi. Ok Mario, sto utilizzando un amplificatore reale della Tesla, non so se te lo ricordi, sono quattro valvole, una driver e finali, Jupiter e Telcom, un amplificatore che veniva come negli anni 70, insomma te cambia. Ho cambiato le valvole, sostituiti i condensatori elettrolitici dell'alimentatore, adesso cambia, molto molto caro, le adopero poco, quindi in salute adoperandolo poco cambia. Intanto a te e famiglia mi vado spesso in, purtroppo in quarantena fuori uso e vado a sistemare, insomma vabbè. Cosa mai aspettiamo in 10 allora, la prossima volta. Ciao Mario, buona giornata, ciao da Venezia. Ciao, ciao, ci troviamo. Hola.